Sezione 13 de Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Sabina. Il Decameron, parte prima, giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Ottava novella. Guglielmo Borsiere, con leggiadre parole, trafigge l'avarizia di messere Ermino de Grimaldi. Sedeva presso Filostrato Lauretta, la quale, poscia che udito ebbe lodare l'industria di Pergamino e sentendo a lei convenir dire alcuna cosa, senza alcuno comandamento aspettare, piacevolmente così cominciò a parlare. La precedente novella, care compagne, m'induce a voler dire come un valente uomo di corte similmente, e non senza frutto, pugnesse d'un ricchissimo mercatante la cupidigia, la quale, perché l'effetto della passata somigli, non vi dovrà perciò esser men cara, pensando che bene n'addivenisse alla fine. Fu adunque in Genova, buon tempo è passato, un gentile uomo chiamato messere Ermino de Grimaldi, il quale, per quello che da tutti era creduto, di grandissime possessioni e di denari di gran lunga trapassava la ricchezza d'ogni altro ricchissimo cittadino che allora si sapesse in Italia. E sì, come egli di ricchezza ogni altro avanzava che italico fosse, così d'avarizia e di miseria ogni altro misero ed avaro che al mondo fosse soperchiava oltre misura. Perciò che, non solamente in onorare altrui teneva la borsa stretta, ma nelle cose opportune alla sua propria persona, contra il generale costume dei genovesi, che usi sono di nobilemente vestire, sosteneva egli per non espendere difetti grandissimi, e similmente nel mangiare e nel bere. Per la qualcosa, e meritamente gli era De Grimaldi caduto il soprannome e solamente messere Ermino Avarizia era da tutti chiamato. Avvenne che in questi tempi che costui non ispendendo il suo moltiplicava, arrivò a Genova un valente uomo di corte e costumato e ben parlante, il qual fu chiamato Guglielmo Borsiere, non mega simile a quelli li quali sono oggi, li quali, non senza gran vergogna dei corrotti e vituperevoli costumi di coloro, li quali al presente vogliono essere gentili uomini e signor chiamati e reputati, son piuttosto da dire asini nella bruttura di tutta la cattività dei vilissimi uomini allevati che nelle corti. E là, dove a quei tempi soleva essere il lor mestiere e consumarsi la lor fatica, in trattar paci dove guerre o sdegni tra gentili uomini fosser nati, o trattar matrimoni, parentadi ed amistà, e con belli motti e leggiadri ricreare gli animi degli affaticati e sollazzar le corti, e con agre riprensioni, sì come padri, mordere i difetti dei cattivi, e questo con premi assai leggeri. Oggidì, in rapportar male dall'uno all'altro, in seminare zizzania, in dir cattività e tristizie, e che è peggio, in farle nella presenza degli uomini, in rimproverare i mali, le vergogne e le tristezze vere e non vere l'uno all'altro, e con false lusinghe gli uomini gentili alle cose vili e scellerate ritrarre s'ingegnano, il lor tempo di consumare. E colui è più caro avuto e più da miseri e scostumati signori onorato e con premi grandissimi esaltato che più abominevoli parole dice o fa atti. Gran vergogna e biasimevole del mondo presente ed argomento assai evidente che le virtù di qua giù dipartitesi hanno nella feccia dei vizi i miseri viventi abbandonati. Ma tornando a ciò che io cominciato avea, da che giusto sdegno un poco m'ha trasviata più che io non credetti, dico che il già detto Guglielmo da tutti i gentili uomini di Genova fu onorato e volentier veduto, il quale, essendo dimorato alquanti giorni nella città, ed avendo udite molte cose della miseria e dell'avarizia di messere Ermino, il volle vedere. Messere Ermino aveva già sentito come questo Guglielmo Borsiere era valente uomo, eppure avendo in sé, quantunque avaro fosse, alcuna favilluzza di gentilezza, con parole assai amichevoli e con lieto viso il ricevette. E con lui entrò in molti e vari ragionamenti. E ragionando, il meno seco, insieme con altri genovesi che con lui erano, in una sua casa nuova, la quale fatta aveva fare assai bella, e dopo avergliele tutta mostrata, disse: «De, messer Guglielmo, voi che avete vedute ed udite molte cose, saprestemi voi insegnare cosa alcuna che mai più non fosse stata veduta, la quale io potessi far dipingere nella sala di questa mia casa?» A cui Guglielmo, udendo il suo malconveniente parlare, rispose: «Messere, cosa che non fosse mai stata veduta non vi crederei io sapere insegnare, se ciò non fosser già starnuti o cose a quegli similianti, ma se vi piace, io ve ne insegnerò bene una che voi non credo che vedeste già mai.» Messere Ermino disse: «Deh, io ve ne priego, ditemi quale è d'essa», non aspettando lui quello dover rispondere che rispose. A cui Guglielmo allora prestamente disse: «Fateci dipingere la cortesia.» Come messere Ermino udì questa parola, così subitamente il prese una vergogna tale che ella ebbe forza di fargli mutare animo quasi tutto in contrario a quello che infino a quella ora aveva avuto, e disse: «Messer Guglielmo, io la ci farò dipingere in maniera che mai né voi né altri con ragione mi potrà più dire che io non l'abbia veduta e conosciuta. E da questo dì innanzi, di tanta virtù fu la parola da Guglielmo detta, fu il più liberale ed il più grazioso gentile uomo e quello che più e di forestieri e di cittadini onorò che altro che in Genova fosse a tempi suoi.» Fine della sezione 13.